stanno morendo senza profumo ormai. Quelle parole dette in autunno io non capivo, sai. Ora ritorna chiara la tua voce, quasi ci fosse il sole anche di notte. Un aquilone vola nel vento come un saluto tuo. Ombra leggera corre sul mare per arrivare a me. Sabbia, sole, schiuma, luce dolce della luna. E poi ritrovarsi sotto un altro cielo, sogni colorati piovono dall'alto su ogni cosa. Passa e non torna, passa e non tornerà. Tutti i miei giorni in un respiro, mille ricordi e poi sabbia, sole, schiuma, luce dolce della su di noi. E poi ritrovarsi sotto un altro cielo, sogni colorati che piovono dall'alto su ogni cosa. E poi ritrovarsi tempo che tu non sai.